Letture di Radio 24. minuti persi in media ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. È il triste primato italiano che nella classifica sul tempo medio trascorso in pendolarismo si colloca al secondo posto, battuta solo dal Belgio. Quali sono le ragioni di questo primato? Secondo gli esperti, il nostro paese offre la peggiore combinazione tra densità di popolazione e qualità dei trasporti. Cosa si può fare avendo a disposizione una settimana l'anno o 45 minuti al giorno in più per vivere? Inutile scoprirlo, poiché questo tempo, solo in teoria prezioso, lo sprechiamo in auto, treno o metropolitana. Tanto è infatti il periodo che 150 milioni di europei in media spendono nella loro esistenza di pendolari tra casa e lavoro. Per gli italiani però le cose stanno ancor peggio. Sono ben 51 gli inani minuti trascorsi quotidianamente per raggiungere l'ufficio. Peggio di noi solo il Belgio, dove i pendolari perdono 52 minuti al dì. Quasi un miraggio la condizione degli inglesi, i più snelli in fatto di spostamenti, appena 36 minuti. Quali sono le cause delle odiose lungaggini? Una ricerca Samsung, che fotografa i pendolari di tutta Europa, snida i colpevoli. Il traffico, i ritardi di bus e metropolitane e gli eterni cantieri. Ma c'è dell'altro. L'urbanizzazione dei paesi europei prevede distanze sempre maggiori, spiega Edoardo Mazzia, ingegnere del traffico AIIT, Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti. Anche perché con la crisi molti hanno scelto di trasferirsi in periferie lontane decisamente più convenienti e questo non ha fatto che peggiorare la viabilità nelle ore di punta. Aumentare le frequenze dei treni o la loro capienza consentirebbe ai tanti indecisi di lasciare l'auto in garage. Certo, anche la qualità dei trasporti è importante, precisa Mazzia. Chi sceglie il treno lo fa perché conta sull'elemento della puntualità. Ma se il treno arriva più tardi dell'auto, è ovvio che non abbandona le quattro ruote. Soprattutto un maggior comfort dei vagoni e l'integrazione tra i sistemi ferroviari e quelli metropolitani, che da noi non dialogano in nessun modo, porterebbe molti a scegliere il mezzo pubblico. Studioso dei problemi del traffico è l'ingegnere Andrea Spinosa. A lui il compito di spiegare la maglia nera dell'Italia. Quando si parla di mobilità, è necessario rapportarne i dati al contesto geografico umano e quindi alla densità della popolazione, alla distribuzione sul territorio, ma anche alle abitudini dei cittadini. In sostanza, più un paese ha una struttura urbana densa, più i suoi abitanti si sposteranno in auto e più gli spostamenti pendolari saranno lenti. Destino segnato, dunque, per chi vive a Roma o Parigi? Non necessariamente. Non è detto che un paese molto abitato abbia per forza mutamenti pendolari lenti. In Inghilterra le cose funzionano perfettamente. È soprattutto la qualità del sistema di trasporto pubblico a fare la differenza. Ecco allora svelato l'arcano che ci condanna alla maglia nera. L'Italia offre la combinazione peggiore tra densità e qualità. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Irene Maria Scalise, Pendolari, da casa all'ufficio in 51 minuti, il record italiano del tempo perso, dalla Repubblica del 29 gennaio. Letture di Radio 24. Il rapporto Pendolaria 2014, diffuso nei mesi scorsi da Legambiente, denuncia l'inadeguatezza del trasporto ferroviario regionale in Italia. Sempre meno treni, con carrozze vecchie e sovraffollate, o in ritardo o soppressi all'ultimo, si legge nel comunicato. Ma c'è anche chi il rapporto l'ha realizzato per conto proprio. Come Gaia, una giovane pendolare che per un anno ha registrato, giorno dopo giorno, i ritardi di Trenord, la compagnia ferroviaria nata dalla fusione delle Ferrovie Nord e della divisione regionale di Trenitalia. Cinzia Farisè, il nuovo amministratore delegato della società, ha definito inaccettabile il servizio offerto da Trenord e ha dichiarato: Quando sono salita per la prima volta su un nostro treno senza stampa al seguito, credevo di essere tornata in India. Difficile però immaginare che i trasporti pubblici indiani possano essere peggiori di quelli offerti da Trenord, se si pensa che dal rapporto stilato dalla giovane pendolare risulta che ogni anno, grazie a ritardi e cancellazioni di treni, si perdono ben 2 giorni di vita. Lo scorso 5 febbraio la Repubblica ha dedicato ampio spazio alla denuncia fatta da Gaia. Ci voleva la santa pazienza di una pendolare per meditare una vendetta coltivata con così tanta cura, precisione e puntualità. La puntualità nel testimoniare, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, mai uno sgarro, i ritardi di Trenord che, ridendo e scherzando, hanno scippato a Gaia D'Averio e a migliaia di persone nella sua stessa situazione 2 giorni della propria esistenza nel solo 2014. Il diario del tempo buttato per colpa di tutti e di nessuno. L'idea è nata a gennaio dello scorso anno, racconta lei, 29 anni, grafica, residente a Varese e un lavoro a Milano, quando al primo giorno di lavoro, dopo le vacanze, sono stata accolta dall'avviso di un ritardo di 10 minuti. Che sarà mai? Mi sono detta lì per lì. Poi però mi sono chiesta quanto tempo un pendolare come me perda ogni anno sui binari, a causa dei disservizi delle compagnie ferroviarie, e ho dato il via a questo esperimento. Ogni giorno Gaia ha scattato una foto al tabellone del binario, una all'andata e una al ritorno. Quando 5 minuti, quando 27, quando 16, la casistica è ampia, il calendario messo giù è precisissimo, il calcolo non ammette sbavature. I giorni di festa, di ferie o di malattia sono segnati con un simboletto a parte. Un lavoro fatto bene, insomma. Il risultato è che l'anno scorso ha sprecato 2.415 minuti aspettando treni, ovvero più di 40 ore della mia vita, spiega. Di sicuro è un ottimo esercizio di autocontrollo, ricompensato con l'ennesimo aumento dell'abbonamento, che adesso è passato da 84 a 88 euro mensili. Servizio scadente, prezzi che aumentano. Non fa una piega. Ma è stato un esperimento fatto esclusivamente per gioco, continua Gaia, per occupare quel tempo passato ad aspettare il treno che non arriva, senza pretese di ottenere qualcosa da Trenord. Ma il ritardo in sé ha anche dei costi aggiuntivi che solo i dannati dei binari conoscono. Io sono fortunata perché non timbro il cartellino, spiega, ma molti degli ormai amici di viaggio non poche volte entrano in ritardo in ufficio e ci rimettono soldi di tasca propria. L'aneddotica di un anno di nervi a fior di pelle è potenzialmente sconfinata. Il caso più bello fu quando alla stazione di Varese ci hanno fatto scendere tutti quanti dicendo «la linea è interrotta». Ci hanno caricato su un pullman e ci hanno lasciato alla fermata successiva. Era appena passato un treno. In pratica si erano sbagliati. La linea era ripartita subito. A scorrere le foto archiviate da Gaia e che implacabili testimoniano il RIT che appare sul tabellone, sullo sfondo si intravede il cambio delle stagioni. Mattine col buio, mattine con la luce, nebbia invernale, sole primaverile, sere col buio, sere con la luce. Un po' le cose sicure della vita. La Terra che gira e intanto compie la sua orbita. Gli assessori regionali ai trasporti che passano e si dimenticano. La voce dell'altoparlante che dice «annuncio ritardo». E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Matteo Pucciarelli «Trenord mi ruba 2 giorni di vita ogni anno» dalla Repubblica del 5 febbraio. Con un abile colpo di mano e senza farsi condizionare dalle promesse fatte, Matteo Renzi è riuscito ad attuare il progetto di far salire al Quirinale l'ex democristiano Sergio Mattarella. Un'elezione che presenta tuttavia una serie di anomalie, come commenta Piero Stellino nel suo primo corsivo sul giornale. E così quel grande innovatore che pretende di essere, a parole, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha riesumato come presidente della Repubblica un vecchio democristiano di sinistra, quanto di più il liberale abbiano prodotto da noi la cultura politica egemone e il sistema politico. L'elezione di Sergio Mattarella rivela perciò alcune anomalie. È stato detto, a questo proposito, che Renzi lo avrebbe proposto e imposto perché una volta al Quirinale Mattarella non gli farà ombra, il che non è propriamente un complimento per il neopresidente, ed è allo stesso tempo un'inquietante indicazione delle ambizioni autoritarie del ragazzotto fiorentino. A sua volta, il sistema informativo ha celebrato Mattarella, prima ancora che fosse eletto, come persona di poche parole, uomo discreto e perciò stesso affidabile. Personalmente ho sempre pensato che chi parla poco in realtà non direbbe nulla di rilevante, come credono molti, se parlasse, e probabilmente è solo uno che non ha nulla da dire. Mattarella, nel corso della sua lunga milizia politica, ha peraltro parlato e chiaramente a sufficienza per aumentare, semmai, il sospetto che la sua elezione non sia un progresso, bensì una regressione sulla strada della modernizzazione del paese. Come democristiano di sinistra ho già detto da quale piede zoppichi. Aggiungo che egli è anche tipicamente un uomo di quello stesso establishment conservatore che è solito cambiare qualcosa affinché nulla cambi. Capisco chi, come Berlusconi, ha mostrato come alleato di Renzi il proprio disappunto di fronte alla designazione unilaterale di Mattarella, nella convinzione che sia stata una violazione del patto del Nazareno e una manifestazione di arroganza. In realtà, secondo me, e secondo ogni evidenza, il patto del Nazareno è solo la cornice entro la quale è nata l'anomala coalizione di governo fra due concezioni dell'Italia fra loro inconciliabili. In quanto tale, esso è solo il dito dietro il quale si nascondono l'ambizione personale politica del Presidente del Consiglio e la sua vocazione autoritaria. La prima anomalia è dunque che il capo dello Stato è stato eletto con la maggioranza parlamentare di governo. La qualcosa contribuisce così, oltre che a prefigurare un eccesso di potere da parte di Renzi, a perpetuare l'equivoco che l'inquilino del Quirinale, una sorta di monarca costituzionale, e quello di Palazzo Chigi, il capo del governo, siano le due facce di una stessa medaglia, tendenzialmente assai poco liberale. Ma così a soffrirne è la stessa democrazia. La seconda e conseguente anomalia è che Renzi ha mostrato, nella circostanza della designazione di Mattarella, di essere uno spirito autoritario. Lo aveva già mostrato quando si era liberato nel PD con parola d'ordine rottamazione della vecchia guardia postcomunista. Parola d'ordine che avrebbe dovuto mettere sull'avviso chiunque abbia cara la nostra democrazia, confermata poi una volta nominato Presidente del Consiglio e ora ribadita con la designazione e l'elezione di Mattarella. Dopo tutto quanto è accaduto finora, non mi pare perciò ci si possano fare molte illusioni sulla volontà di Matteo Renzi di modernizzare il Paese. Semmai è più il caso di parlare di operazioni che via via si sono connotate per la volontà da parte del capo del governo di accrescere il proprio potere personale, non solo all'interno del Partito Democratico, ma altresì a scapito dei propri alleati e dell'opposizione in Parlamento. Ambizione di potere che non sarebbe in sé necessariamente negativa, se fosse legittimata da un'adeguata cultura politica, invece che sostenuta, com'è, da un mare di parole senza gran costrutto. A monitorare tale tendenza dovrebbero essere innanzitutto i media, come accade nelle democrazie più mature, secondo la descrizione che ne ha fatto Tocqueville nella Democrazia in America. Ma, a parte le rare eccezioni, ciò non mi pare accada, o accada assai meno di quanto sarebbe opportuno accadesse. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Piero Ostellino? Renzi ha partorito il figlio di una cultura illiberale, da Il Giornale del 1 febbraio. Prima che Mattarella venisse eletto, Massimo Gramellini aveva ironizzato nella sua rubrica sulla stampa sulla mancanza di verve del candidato al Colle. Al confronto, Monti era il carnevale di Rio. Ho guardato e riguardato l'unica intervista a Sergio Mattarella disponibile su YouTube, ambientata su un divano a fiori non vivacissimi. In 4 anni ha ricevuto 0 commenti. Questo è il primo. Argomento della conversazione, il ruolo della cultura. Il presidente designato della Repubblica parla per 6 minuti senza mai variare il tono della voce né muovere un muscolo del volto. A metà, per alleggerire, racconta una storiella del IV secolo a.C. La sua dialettica è un riuscito mix tra la verve di Forlani e l'immediatezza di De Mita. Credo che il bombardamento commercializzato di modelli di vita cui oggi siamo sottoposti abbia agevolato e accresciuto, se non la tendenza, il pericolo di un abbassamento dei valori di riferimento. Intendeva dire, con qualche ragione, che le TV di Berlusconi ci hanno lietamente rimbecillito. Oltre a Epitteto e Aristippo, che non sono due nazionali brasiliani, cita l'amato San Francesco. Non è difficile immaginare che le sue prime mosse sul colle sarebbero il distacco delle prese dei televisori e l'abbassamento della statura dei corazzieri per risparmiare sulla stoffa delle divise. Dimezzerebbe i costi, gli sprechi e gli aggettivi, imponendo la dieta a Bergoglio a tutto il Quirinale. Da cittadino un presidente così mi entusiasma. Da giornalista mi getta nella disperazione più cupa. Per dirla alla Mourinho, Mattarella ci darà 0 titoli. Confido nell'effetto inebriante della carica, ma nel dubbio comincio a ripassare Aristippo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Papa Sergio, 0 titoli, dalla stampa del 30 gennaio. Inizialmente designato alla presidenza del premio Campiello, Pier Giorgio Diffreddi è stato poi sostituito da Ilvo Diamanti. Non sono chiare le ragioni del ripensamento, ma quello che è certo è che il matematico impenitente non l'ha presa molto bene e ha definito le giurie dei premi letterari dei covi di vipere, mettendo in dubbio la legittimità dei giurati in quanto non letterati. Ma come scrive Paolo Di Stefano in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Diffreddi dimentica che in passato molti contributi importanti alla letteratura sono arrivati anche da persone che operavano in altri campi. Non si capisce bene chi abbia ragione e chi torto nella polemica tra il matematico Pier Giorgio Diffreddi e i responsabili del premio Campiello, che prima gli avrebbero chiesto di assumere la presidenza, poi ci avrebbero ripensato, chiamando il sociologo Ilvo Diamanti. Per quali motivi ci avrebbero ripensato? Pare per via dell'opposizione politica di due giurati autorevoli, Filippo Daverio e Riccardo Calimani. Evitando di entrare nei meandri delle argomentazioni polemiche, hanno colpito le reazioni di Diffreddi, che sono riuscite incredibilmente a farlo passare dalla parte del torto a prescindere. Venuto a sapere che gli è stata sottratta la presidenza, Diffreddi si è subito premurato di esibire nel suo sito la lettera di nomina ricevuta nel dicembre scorso. E fin qui, per così dire, tutto bene. Ma alla prima vibrante indignazione, forse giusta, ha fatto seguire una serie di acuti e strepiti, il più prevedibile dei quali è l'accusa ai premi letterari di essere covi di vipere. E stupisce che Diffreddi si stupisca, visto che nella sua lunga e onorata carriera è stato insignito di una buona decina di premi che, a questo punto, gli toccherebbe restituire, anche se il premio Italgas, ottenuto nel 2006, non è, a rigore, un riconoscimento letterario. Poi si è dichiarato solidale con Diamanti, cuneese come lui, collaboratore della Repubblica come lui, nonché professore universitario come lui, a differenza di Daverio, che non ha neppure una laurea, né purtroppo risulta essere cuneese. Rimprovero discutibile, quasi infantile, come quando da piccoli si rinfacciava al compagno antipatico di essere troppo basso, di portare gli occhiali o di avere i brufoli. Infine, ed è forse questa la dichiarazione più stupefacente, Diffreddi ha accusato Daverio e Calimani di essere indebitamente in una giuria letteraria, non essendo letterati bensì, rispettivamente, uno storico dell'arte e un ingegnere. Allora non si capisce perché mai Diffreddi, forte di questa convinzione sulle incompetenze settoriali, non abbia rinunciato subito all'incarico. Ma soprattutto dispiace dover ricordare quali e quanti contributi, diretti e indiretti, alla letteratura, siano arrivati da storici dell'arte, arcangeli, paronchi, longhi, testori e ingegneri, il grande Betocchi, Sinisgalli, Gadda, per non dire di Dostoevskij. E anche dai matematici, purché conservino un minimo di logica, indispensabile alla matematica e alla letteratura, così come alle polemiche costruttive. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Paolo Di Stefano, quella inutile polemica sui premi letterari, dal Corriere della Sera del 3 febbraio.